Sera libera. Come? Niente budino? Domandò Michael. Mary Poppins, con le braccia cariche di piatti, bicchieri e coltelli, cominciava ad apparecchiare la tavola per la merenda. Ella si volse e lo squadrò severamente. Questa, osservò, è la mia sera libera. Perciò mangerete pane, burro e marmellata di fragole e dovete esserne ben contenti. Ci sono tanti bambini che sarebbero felici di avere tanta grazia di Dio. Io no. Brontolò Michael. Voglio un budino di riso io, con dentro il miele. Voglio, voglio, voglio, sempre voglio. Se non è questo, è quest'altro, e se non è quest'altro, è quell'altro ancora. La prossima volta vorrai la luna. Michael si mise le mani in tasca e tutto imbronciato si diresse verso lo sgabello sotto la finestra. Jane stava lì, inginocchiata, guardando il cielo gelido e luminoso. Michael le si arrampicò accanto, sempre con aria molto adirata. Benissimo, allora, voglio proprio la luna. È così, gridò queste parole all'indirizzo di Mary Poppins, ma io so che non l'avrò. Nessuno mi dà mai nulla. Distolse in fretta lo sguardo dagli occhi di lei. Jane, piagnucolò, non c'è il budino. Non interrompermi, sto contando, rispose Jane e premeva il nasino contro il vetro della finestra, di modo che la punta rimaneva completamente schiacciata e appiattita. Contando che cosa? Domandò lui senza molto interesse. La sua fantasia era piena di budini di riso e di miele. Le stelle cadenti! Guarda, lì ce n'è un'altra. Questa è la settima. Oh, e un'altra! Otto. E una sul parco fanno nove. Oh! Ah, là ce n'è una che scende sulla ciminiera dell'ammiraglio Boom, esclamò Michael, drizzandosi improvvisamente e dimenticando il budino. E un'altra, piccolina, vedi, che sta cadendo proprio qui sul viale. Che luci fredde! Jane osservò. Ah, come mi piacerebbe essere lassù. Come fanno le stelle a cadere, Mary Poppins? Escono fuori da un fucile? Chiese Michael. Mary Poppins arricciò il naso con disprezzo. Cosa credete che sia? Un'enciclopedia? Dovrei sapere tutto dalla A alla Z? Domandò Burbera. Venite piuttosto a fare merenda, per piacere. Li spinse verso le sedie e abbassò la tapparella. E basta sciocchezze, ho fretta. E li costrinse a mangiare così di furia che temevano, entrambi, di soffocare. Posso prenderne solo un altro pezzo? Domandò Michael tendendo la mano verso il piatto del pane e burro. No, non puoi. Hai già mangiato anche troppo. Prendi un biscotto d'avena e vai a letto. Ma niente ma con me, o te ne pentirai, lo investì lei severamente. Farò un'indigestione senza dubbio, mormorò Michael a Jane con una voce che era un soffio, perché quando Mary Poppins guardava in quel modo era più saggio non fare commenti. Jane non vi badò, stava mangiando piano piano il suo biscotto d'avena ed esplorando con circospezione fuori, nel cielo luminoso, attraverso una fessura della tapparella. 13. 14, 15, 16. Ho detto o non ho detto di andare a letto? Ripeté la voce familiare dietro a loro. Va bene, sto andando, Mary Poppins. E brontolando corsero nella stanza da letto mentre Mary Poppins li sorvegliava con un'aria semplicemente terribile. Di lì a mezz'ora appena, Mary Poppins rimboccava i letti uno dopo l'altro, spingendo lenzuola e coperte sotto i materassi con rapidi movimenti nervosi. Ecco, disse a denti stretti, per questa notte basta, e se io sento una sola parola. Non terminò la frase di ammonimento, ma il suo sguardo era di per sé molto eloquente. Saranno dolori, disse Michael per concludere la frase di Mary Poppins, ma pronunciò queste parole quasi senza respiro, al lenzuolo, perché sapeva quello che sarebbe successo se le avesse dette ad alta voce. Mary Poppins uscì rapidamente dalla stanza e chiuse la porta con un colpo secco. Udirono il suo passo leggero frettarsi giù per le scale, tap tap tap tap, da un pianerottolo all'altro. Ha dimenticato di accendere il lumino da notte, esclamò Michael. Deve avere una gran fretta, mi domando dove stia andando. E non ha chiuso le persiane? Soggiunse Jane, mettendosi a sedere sul letto. Evviva! Ora possiamo guardare le stelle cadenti. I tetti puntuti del viale dei ciliegi scintillavano di brina, e il chiaro di luna, scivolando sulle pendici luccicanti, penetrava silenzioso nell'ombra dei cortili. Ogni cosa brillava e scintillava, la terra era luminosa come il cielo. 17, 18, 19, 20, disse Jane, continuando a contare coscienziosamente le stelle cadenti. Scomparsa una, un'altra veniva subito a prenderne il posto, finché sembrò che tutto il cielo fosse vivo e danzasse con la fantasmagoria delle stelle cadenti. È come un fuoco d'artificio, osservò Michael. Oh, guarda quella! Oppure il circo. Credi che in cielo ci siano i circhi, Jane? Non ne sono sicura, rispose Jane dubbiosamente. Là c'è l'orsa maggiore e l'orsa minore. Poi vedo il toro e il leone, ma non ho mai sentito parlare del circo. Mary Poppins lo saprebbe, replicò Michael scuotendo la testa. Sì, ma non ce lo direbbe, disse Jane e si voltò di nuovo alla finestra. Dove ero arrivata? A 21. Oh, Michael, che bellezza, vedi? Saltava eccitata su e giù sul letto, puntando il dito verso la finestra. Una luminosissima stella, più grande di quante mai ne avessero vedute, attraversava il cielo, cadendo verso il numero 17 del viale dei ciliegi. Era differente dalle altre perché, invece di attraversare diritta il cielo, girava e rigirava molto curiosamente su se stessa nell'aria. Abbassa la testa, Michael, lo avvertì improvvisamente Jane. Sta venendo qui! Si rannicchiarono sotto le coperte e nascosero il capo sotto il cuscino. Credi che se ne sia andata adesso? Domandò poco dopo la voce di Michael attutita dalle coperte. Sono quasi soffocato. Certo che non me ne sono andata, gli rispose una voce chiara. Per chi mi prendete? Molto sorpresi, Jane e Michael fecero capolino dalle coperte. Là, sull'orlo del davanzale della finestra, appoggiata sulla sua coda luminosa, stava la stella cadente. Venite voi due, presto, li esortò, inondando la stanza della sua luce fredda. Michael la guardò, occhi spalancati. Ma non capisco, cominciò. Una piccola risata rutilante risuonò nella stanza. Tu non capisci mai, vero? Disse la stella. Intendi dire che dobbiamo venire con te? Domandò Jane. Certo, e badate a coprirvi, fa freddo. I bambini saltarono fuori dal letto e corsero a prendere i cappotti. Avete del denaro? Domandò seccamente la stella. Nella tasca del mio cappotto dovrebbe esserci una monetina, disse Jane incerta. Non basta, ecco, prendete. E con un lieve fischio, come il razzo di una girandola, la stella mandò fuori uno sprazzo di scintille. Due di esse attraversarono la stanza e caddero una nella mano di Jane e l'altra in quella di Michael. Presto, presto, o saremo in ritardo. La stella raggiò per la stanza, attraversò la porta chiusa e giù per le scale con Jane e Michael che la seguivano, tenendo stretta la loro moneta stellata. Mi domando se sto sognando, disse a se stessa Jane mentre camminava in fretta per il viale dei ciliegi. Seguitemi! Gridò la stella, giunta alla fine del viale. Là, dove il cielo luminoso sembrava scendere giù e congiungersi al marciapiede, e scivolò nell'aria e scomparve. Seguitemi, seguitemi! Ripeté la voce da un punto del cielo e salite su una stella! Jane afferrò la mano di Michael e un po' esitante sollevò il piede dal suolo. Con sua grande sorpresa constatò che la stella più bassa nel cielo poteva essere raggiunta facilmente. Vi saltò su, tenendosi con circospezione in equilibrio. La stella sembrava ben ferma e solida. Andiamo, Michael! In fretta si avviarono su per il cielo scintillante, saltando da una stella all'altra. Seguitemi! Comandò la voce che li precedeva. Jane si fermò, guardò in giù e trattenne il respiro nel vedere a quale altezza erano giunti. Il viale dei ciliegi, anzi l'intero mondo, appariva piccino e lucente come una palla dell'albero di Natale. Michael, hai le vertigini? Domandò Jane slanciandosi su una grossa stella piatta. No, no, se mi tieni per mano. Si fermarono. Dietro la gran scalinata di stelle conduceva fino alla terra. Ma davanti a loro non potevano distinguere nulla, eccetto una densa chiazza blu di cielo vuoto. La mano di Michael tremò in quella della sorellina. Che facciamo adesso? Domandò con una voce che tradiva lo spavento. Salite, salite, salite a vedere lo spettacolo. Pagate con i vostri soldi e scegliete. Il drago con due code oppure il cavallo alato? Magiche, stupende, universali meraviglie. Salite, salite! Una voce tonante gridava queste parole al loro orecchio. Si guardarono intorno, ma non c'era anima viva. Allora voi, venite avanti, non perdete l'occasione di vedere il toro dorato, il buffo pagliaccio, la compagnia famosa in tutto il mondo delle costellazioni artiste. Una volta ammirate, mai dimenticate, scostate la tenda ed entrate. La voce risuonò ancora accanto a loro. Jane spinse la mano avanti e con sua enorme sorpresa trovò che quel che era loro sembrato una macchia di cielo senza stelle, era invece una spessa tenda scura. Ne afferrò un lembo e, trascinandosi dietro Michael, scostò la tenda. Uno scintillio di luce li abbagliò per un istante. E quando ci videro nuovamente, si trovarono sull'orlo di una pista rotonda di sabbia lucente. La grande tenda blu girava tutto intorno, formando in cima una cupola, come se ne vedono nei circhi equestri. Su via! Sapete che eravate quasi in ritardo. Avete i biglietti? Si volsero e in piedi dietro a loro, scintillante sulla sabbia, stava una strana e gigantesca figura. Sembrava un cacciatore perché una stellata pelle di leopardo era gettata sulle sue spalle e dalla cintura, decorata di tre grosse stelle, pendeva una spada rilucente. Biglietti, prego! E tese la mano. Temo di non averne, noi non sapevamo, cominciò Jane. Oh, ma che smemorati! Non posso lasciarvi entrare senza biglietto, sapete? Ma cosa avete in mano? Jane mostrò la scintilla d'oro. Beh, se questo non è un biglietto, vorrei sapere che cos'è. Mise la scintilla tra le sue tre larghe stelle. Un nuovo ornamento per la cintura di Orione, osservò allegramente. Sei Orione tu? Domandò Jane spalancando tanto di occhi addosso. Naturalmente, non lo sapevi? Ma scusami, devo badare alla porta. Andate avanti, per piacere. I bambini, piuttosto intimiditi, avanzarono tenendosi per mano. File e file di sedie si stendevano da un lato e dall'altro, un cordone d'oro li separava dalla pista. E la pista era gremita dalla più strana collezione di animali, tutti lucenti come oro. Un cavallo dalle grandi ali dorate si impennava sui suoi zoccoli scintillanti. Un pesce d'oro, anch'esso, solcava con la pinna la polvere della pista. Tre capretti correvano selvaggiamente su due gambe invece che su quattro. E sembrò a Jane e a Michael, guardando più da vicino, che tutti quegli animali fossero fatti di stelle. Le ali del cavallo erano di stelle, non di piume. I tre capretti avevano delle stelle sul naso e sulla coda, e il pesce era ricoperto di lucenti scaglie stellate. Buonasera! Disse il pesce mentre passava inchinandosi educatamente a Jane. Bella notte per lo spettacolo. Ma prima che Jane potesse rispondere, si era allontanato. Che stranezza, ella osservò. Non ho mai visto prima d'ora animali come questi. E perché dovrebbe essere strano? Domandò una voce dietro di loro. Due bambini, due maschietti un poco maggiori di Jane, stavano lì sorridenti. Indossavano una tunica scintillante e i loro berretti a punta avevano ciascuno una stella in cima invece di un fiocco. Vi domando scusa, disse Jane garbatamente, ma vedete, eravamo abituati a pellicce e piume e questi animali sembrano fatti di stelle? Ma certo che lo sono, rispose il primo ragazzetto spalancando gli occhi. Di cos'altro potrebbero essere fatti? Sono le costellazioni. Ma anche la segatura è d'oro, cominciò Michael. Il secondo ragazzo rise. Polvere di stelle, vuoi dire? Non sei mai stato in un circo prima d'ora? Non in uno così. Tutti i circhi sono uguali, disse il primo ragazzo. I nostri animali sono più lucenti, ecco tutto. Ma voi chi siete? Domandò Michael. I gemelli? Quello è Polluce e io Castore, stiamo sempre insieme. Come i gemelli siamesi? Sì, ma ancora di più. I gemelli siamesi sono uniti solo nel corpo, ma noi due abbiamo un solo cuore e una sola intelligenza. Possiamo pensare ciascuno i pensieri dell'altro e sognare ciascuno i sogni dell'altro. Ma non possiamo trattenerci qui a discorrere, dobbiamo tenerci pronti. Vedrete più tardi. E i gemelli corsero via e scomparvero dietro una tenda. Oi, dico! Gridò una malinconica voce dalla pista. Non avete per caso un maritozzo in tasca? un drago con due grandi code pinnate si trascinava pesantemente verso di loro, soffiando vapore dalle narici. «Mi dispiace, non ne abbiamo», rispose Jane. «Neppure un biscotto o due?» insistette con impazienza il drago. I bambini scossero la testa. «Me lo immaginavo», gemette il drago, lasciando cadere una lacrima d'oro. «È sempre così le sere della rappresentazione. Non mi si dà da mangiare fin dopo lo spettacolo. Di solito mangio una bella vergine per cena». Jane si tirò lesta indietro, trascinandosi Michael. «Oh, non avere paura», proseguì il drago, rassicurandola. «Voi sareste assolutamente troppo piccoli. Inoltre, siete esseri umani e quindi senza sapore». «Mi tengono affamato», spiegò, «perché così faccio meglio i miei esercizi. Ma dopo lo spettacolo...» Una luce ghiotta brillò nei suoi occhi e si allontanò con la lingua pendente, dicendo «gnam-gnam» con una voce morbida, golosa e sibilante. «Sono contenta che siamo soltanto degli esseri umani», osservò Jane volgendosi a Michael. «Sarebbe terribile essere mangiati da un drago». Ma Michael era scappato avanti e stava parlando animatamente ai tre capretti. «Come va?» domandava quando Jane lo raggiunse. Il capretto maggiore, che a giudicare dalle apparenze si era offerto di recitare, si schiarì la gola e cominciò: «Corno e piede, piede e corno». «Su via, capretti!» La voce tonante di Orione lo interruppe. «Potrai recitare la tua parte quando sarà il momento. Tieniti pronto adesso. Stiamo per cominciare. Seguitemi, prego», disse ai bambini. Essi trottarono docilmente dietro la luminosa figura e gli animali dorati si volgevano al loro passaggio. Udirono, mentre avanzavano, brani di conversazione mormorati a bassa voce. «Chi sono?» domandava un gigantesco toro stellato, mentre si fermava a guardarli, raspando con le zampe la polvere di stelle. E un leone si volse e mormorò qualcosa all'orecchio del toro. Afferrarono le parole Banks e Sera libera, ma nulla di più. Ora ogni posto in ogni fila era occupato da una figura stellata. Erano rimasti solo tre posti vuoti e a quelli Orione condusse i bambini. «Ecco, li abbiamo riservati per voi, proprio sotto il palco reale. Vedrete magnificamente, guardate, stanno cominciando proprio ora». E volgendosi, Jane e Michael videro che la pista era vuota. Gli animali erano corsi fuori, mentre i bambini salivano ai loro posti. Si slacciarono il cappotto e si misero a guardare tutti elettrizzati. Giunse da una parte una fanfara, un suono di musica echeggiò attraverso la tenda e al di sopra del suono si udì un acuto dolce nitrito. «Le comete!» spiegò Orione sedendosi accanto a Michele. Una testa selvaggia apparve all'entrata e una dopo l'altra 9 comete galopparono nella pista con le criniere intrecciate d'oro e piume d'argento sulla testa. Improvvisamente la musica si tramutò in un gran ruggito e contemporaneamente le comete caddero in ginocchio chinando la testa. Un soffio d'aria calda penetrò nel circo. «Che caldo!» si lamentò Jane. «Zitti, sta arrivando!» disse Orione. «Chi?» mormorò Michael. «Il domatore!» Orione fece un segno con la testa verso l'entrata degli artisti. Una luce brillò eclissando quella delle costellazioni e diventò man mano più abbagliante. «Eccolo!» La voce di Orione aveva una curiosa dolcezza e mentre parlava apparve fra le tende una superba figura dorata, la cui testa raggiante era incorniciata di riccioli fiammeggianti e con essa giunse una grande ondata di calore che investì la pista e si diffuse fino a raggiungere Jane, Michael e Orione. A metà coscienti e a metà sognanti, a causa di quel calore, Jane e Michael si tolsero i cappotti. Orione si drizzò in piedi, tenendo la mano destra sul capo. «Salve sole, salve!» egli gridò. E dalle stelle spettatrici echeggiò il grido «Salve!». Il sole girò lo sguardo sulla platea e in risposta al saluto fece girare 3 volte intorno al capo la sua lunga frusta d'oro. Mentre la frusta roteava per l'aria, si udì un breve schiocco. Nello stesso tempo le comete si alzarono e cominciarono a galoppare con le code d'oro che ondeggiavano selvaggiamente e le teste piumate alte ed erette. «Eccoci nuovamente qui! Eccoci nuovamente qui!» gridò una grossa voce arrochita e balzando nella pista giunse una comica figura con la faccia dipinta d'argento. la larga bocca rossa e un grande collare d'argento intorno al collo. «Saturno! Il pagliaccio!» mormorò Orione ai fanciulli. «Quand'è che una porta non è porta?» domandò il pagliaccio al pubblico, facendo una capriola e rimanendo in equilibrio su una mano. «Quand'è aperta?» risposero in coro Jane e Michael. Un'espressione di disappunto apparve sul volto del pagliaccio Saturno. «Oh, lo sapete!» disse in tono di rimprovero. «Questo non è giusto!» Il sole fece schioccare la frusta. «Benissimo, benissimo!» disse il pagliaccio. «Ne dico un'altra. Perché una gallina attraversa la strada?» domandò, lasciandosi cadere di peso sulla polvere di stelle. «Per andare dall'altra parte?» gridarono Jane e Michael. «Via, via tu!» gridò il sole toccando con la sua frusta le spalle del pagliaccio. Il pagliaccio fece un giro di capriola intorno al circo gridando: «Povero vecchio Joe, ha fatto fiasco un'altra volta. Conoscono tutti i suoi scherzi, povero vecchio Joe, povero... Oh, scusatemi, signorina, scusatemi!» Si interruppe perché aveva fatto una capriola addosso a Pegaso, il cavallo alato, nel momento in cui entrava portando in groppa una luminosa figura rivestita di lustrini luminosi. «Venere, la stella della sera», spiegò Orione. Senza respiro, Jane e Michael guardarono la stellata figura cavalcare leggera attraverso la pista. Continuò a girare in tondo, inchinandosi al sole quando gli passava dinanzi, ed ecco che il sole, stando sul suo cammino, alzò un gran cerchio coperto di una sottile carta d'oro. Ella si dondolò sui piedi per un momento e «hop!» incitò il sole, e Venere, con somma grazia, saltò attraverso il cerchio e andò a cadere nuovamente sulla groppa di Pegaso. «Evviva!» gridarono Jane e Michael, e l'assemblea di stelle fece eco. «Evviva!» «Lasciatemi provare, lasciate che il povero Joe faccia un altro tentativo, soltanto uno piccolino che farebbe ridere un gatto», pregò il pagliaccio. Ma Venere si contentò di scuotere la testa, rise e cavalcando uscì dalla pista. Era appena scomparsa che i tre capretti entrarono saltellando con l'aria piuttosto timida e si chinarono goffamente innanzi al sole. Quindi si alzarono sulle zampe posteriori e con voce esile e acuta recitarono la seguente canzone. «Ascoltate i nostri detti, ogni notte tre capretti con le code scintillanti nel gran ciel si fanno avanti. Bianco e blu, sembra il cielo un grande manto e i capretti vanno avanti con le code scintillanti. Son giocondi, son lucenti e non hanno ancora i denti, ma di latte i tre capretti sono molto golosetti. Vien la notte nera e scura, ai bambini fa paura, ma i capretti fortunati mangiar possono nei prati e le stelle scintillanti son per loro erbe fragranti». Recitarono le ultime parole con un lungo belato e uscirono a passo di danza. «Cosa c'è adesso?» domandò Michael. Ma non ci fu bisogno che Orione rispondesse, perché già il drago era nella pista con le narici fumanti e le due code pinnate che sollevavano la polvere stellata. Dopo di lui vennero Castore e Polluce, portando un grosso globo bianco e scintillante su cui erano disegnate montagne e fiumi. «Sembra la luna!» osservò Jane. «È infatti la luna!» confermò Orione. Il drago si teneva ora sulle zampe posteriori e i due gemelli gli posero la luna in equilibrio sul naso. Essa dondolò incerta per un momento, poi si fermò e il drago cominciò a danzare un valzer al suono di una musica stellata. Piroettò torno torno con molta attenzione e agilità, una, due, tre volte. «Basta!» ordinò il sole facendo schioccare la frusta. Allora il drago, con un sospiro di sollievo, scosse la testa e mandò la luna a ruzzolare attraverso la pista. Essa andò a finire con un rimbalzo proprio in grembo a Michael. «Santo cielo!» esclamò egli quasi spaventato. «Che devo farne?» «Quello che vuoi», rispose Orione. «Credevo che tu l'avessi chiesta». E Michael, tutto a un tratto, ricordò la sua conversazione di quella sera con Mary Poppins. Aveva chiesto la luna ed ecco che l'aveva ottenuta e non sapeva che farsene. Che situazione imbarazzante! ma non ebbe il tempo di tormentarsi poiché il sole stava facendo schioccare nuovamente la frusta. Michael posò la luna su un ginocchio e la tenne ferma con un braccio e si volse di nuovo verso la pista. Quanto fa 2 più 3? Stava domandando il sole al drago. Le due code batterono 5 colpi sulla polvere di stelle. E 6 più 4? Il drago rifletté un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le code si arrestarono. Sbagliato! Il sole disse. Completamente sbagliato. Niente cena per questa notte. A tali parole il drago scoppiò in lacrime e singhiozzando corse fuori dalla pista. Ahimè, ahimè, buh, buh, buh, gridava amaramente. Desideravo una verginella cucinata alla besciamella, una fanciulla grassoccia e gustosa con le stelle per occhi e guance di rosa, coi capelli d'oro e di seta come quelli della cometa. E se le vergini fossero 3, meglio sarebbe stato per me, poiché ho una fame per 23. Boho, boho, boho. Non gli daranno neppure una fanciulla piccola piccola? Domandò Michael, che si era impietosito per il drago. Zitto! Intimò Orione mentre una splendente figura entrava nella pista. Quando la nuvola di polvere stellata si fu dissipata, i bambini si tirarono indietro trasalendo. Era il leone e ruggiva fieramente. Michael si trasse più vicino a Jane. Il leone, ventre a terra, si mosse lentamente fino a raggiungere il sole. La sua lunga lingua rossa penzolava pericolosamente fuori, ma il sole si contentò di ridere e, alzando il piede, dette un delicato colpetto sul naso dorato del leone, con un ruggito come se fosse stato bruciato. Lo stellato animale si drizzò. La frusta del sole schioccò energicamente nell'aria. Pian piano, di malavoglia, continuando a brontolare, il leone si alzò sulle zampe posteriori. Il sole gli lanciò una corda per saltare. E tenendola fra le zampe anteriori, il leone cominciò a cantare. Io sono il leone, il fiero leone, nel cielo mi trovo di sotto ad Orione, e nelle magnifiche notti stellate, signori leone, nel cielo ammirate. Finita la canzone, mise la corda in azione e cominciò a saltare intorno alla pista, roteando gli occhi e ruggendo. Sbrigati, Leo, è il nostro turno. Una voce tonante risuonò dietro la tenda. Avanti, felino! Incalzò una voce acuta. Il leone lasciò cadere la corda e con un ruggito balzò presso le tende, ma le due creature che entrarono si tirarono lestamente da parte così che il leone non poté afferrarle. L'orsa maggiore e l'orsa minore, annunciò Orione. Pesantemente le due orse si trascinarono avanti, dandosi l'un l'altra la zampa e ballando il valzer al suono di una lenta melodia. Fecero il giro della pista con aria molto seria e solenne e alla fine della danza fecero una goffa riverenza all'uditorio e cantarono: Siamo due sorelline graziose e birichine, sappiamo ben danzare ed anche domandare. Vorremmo un po' di miele, oppure, oppure, oppure, oppure, oppure. L'orsa maggiore e l'orsa minore balbettarono guardandosi l'un l'altra. Non ti ricordi cosa viene dopo? Balbettò l'orsa maggiore dietro la zampa. No, non mi ricordo. L'orsa minore scosse la testa e fissò insistentemente la polvere di stelle, quasi credesse che le parole dimenticate fossero scritte lì. Ma in quel momento una pioggia di miele si rovesciò con violenza presso le due orse. L'orsa maggiore e l'orsa minore, d'un tratto rianimate, si chinarono a leccarlo. Buono, bofonchiò l'orsa maggiore, ficcandovi il naso. Eccellente! Esclamò con la sua voce acuta l'orsa minore. Quindi, con i nasi lucenti di miele, si inchinarono solennemente al sole e si trascinarono fuori. Il sole agitò la mano e la musica riprese più forte. Il segnale per la grande parata, informò Orione, mentre Castor e Polluce entravano nella pista, seguiti da tutte le costellazioni. Le orse tornarono indietro, danzando insieme goffamente il valzer, e il leone, sempre ruggendo di rabbia, stava loro alle calcagna con il naso arricciato. Entrò un cigno sidereo e cantò un'acuta, limpida canzone. Il canto del cigno, spiegò Orione. Dopo il cigno giunse il pesce tenendo i tre capretti per una corda d'argento e seguiva il drago che continuava a singhiozzare amaramente. Un rumore forte e terribile sommerse quasi la musica. Era il ruggito del toro mentre entrava in scena e cercava di buttare giù dalla groppa Saturno il pagliaccio. Una dopo l'altra le creature stellate si affrettarono a prendere posto. La pista era diventata una massa ondeggiante di corna, zoccoli, criniere e code d'oro. «È la fine?» mormorò Jane. «Quasi», le rispose Orione. «Finiscono presto stanotte. Deve essere a casa alle 10:30». «Chi?» domandarono insieme i bambini. Ma Orione non udì. Stava in piedi al suo posto, agitando il braccio. «Venite, presto, avanti!» chiamò. E giunse Venere in groppa al suo cavallo alato, seguita da un sidereo serpente che con cura si teneva la coda in bocca e girava rapidamente come un cerchio. Ultime arrivarono le comete, uscendo alternamente dalle tende e agitando le loro code ornate. La musica suonava ora sempre più forte e selvaggia, e un fumo dorato si innalzò dalla polvere di stelle, mentre le costellazioni, gridando, cantando, ruggendo, brontolando, si disponevano in cerchio. E al centro, come se non osasse avvicinarglisi troppo, lasciarono un grande spazio per il sole. Egli stava lì e li dominava tutti, tenendo la frusta ripiegata tra le braccia. Faceva un cenno con la testa a ogni animale che gli passava davanti, a testa china. Ed ecco che Jane e Michael videro il suo sguardo lucente partirsi dalla pista ed errare intorno sull'uditorio di stelle finché si volse nella direzione del palco reale. Si sentivano investiti da un soffio sempre più caldo man mano che i suoi raggi si avvicinavano e quando caddero su di loro con grande sorpresa, lo videro alzare la frusta e far loro un cenno con la testa. Al sollevarsi della frusta, ogni stella e costellazione si girò da quella parte e con un solo movimento fecero un inchino. «Stanno forse... è possibile che si stiano inchinando a noi?» mormorò Michael, stringendo più forte la luna. Una ben nota risata risuonò dietro a loro. Si volsero e là, sola nel palco reale, stava una figura familiare col cappello di paglia, il mantello blu e una catenina d'oro con un medaglione intorno al collo. «Salve, Mary Poppins! Salve!» esclamò il coro delle voci dalla pista. Jane e Michael si scambiarono uno sguardo. «Ecco quel che faceva Mary Poppins nella sua sera libera!» Credevano a stento ai loro occhi, eppure là c'era proprio Mary Poppins, in grandezza naturale con la sua aria di superiorità. «Salve!» ripeté il coro. Mary Poppins alzò la mano in segno di saluto. Quindi, con passo pomposo e pieno di importanza, uscì dal palco. Non sembrò affatto sorpresa di scorgere Jane e Michael. Si contentò di arricciare il naso quando passò loro davanti. «Quante volte vi è stato detto», osservò, «che non è educazione guardare fisso?» Passò oltre e scese nella pista. L'orsa maggiore sollevò il cordone d'oro e le costellazioni si trassero in disparte e il sole fece un passo avanti. Parlò e la sua voce era calda e piena di dolcezza. «Mary Poppins, mia cara, sii la benvenuta!» Mary Poppins cadde in ginocchio in un profondissimo inchino. «I pianeti ti salutano e le costellazioni ti riveriscono. Alzati, fanciulla mia!» Ella si alzò, chinando rispettosamente la testa dinanzi a lui. «Per te, Mary Poppins», proseguì il sole, «le stelle si sono riunite stasera in questa oscura tenda blu. Per te hanno rinunziato a brillare stanotte nel mondo. Credo, del resto, che tu ti sia divertita in questa tua sera libera». «Oh, non ne ho mai trascorsa una migliore», rispose Mary Poppins, alzando la testa con un sorriso. «Cara fanciulla!» Il sole si inchinò. «Ma adesso le ore della notte precipitano e tu devi essere di ritorno alle 10:30, perciò, prima della tua partenza, danziamo tutti la danza del cielo rotante». «Scendete giù», ordinò Orione ai bambini attoniti e dette loro una spintarella. Scesero, inciampando le scale, e per poco non caddero nella pista di polvere di stelle. «E dove sono andate a finire le buone maniere?» sibilò nell'orecchio di Jane la voce ben nota. Che devo fare? Balbettò Jane. Mary Poppins la fulminò con lo sguardo e fece un piccolo movimento della testa verso il sole. All'improvviso Jane comprese, afferrò il braccio di Michael e, inginocchiandosi, si trascinò dietro il fratello. Il calore del sole li accarezzò con una bruciante dolcezza. Alzatevi, bambini, egli disse amabilmente. Siete i benvenuti, vi conosco bene. Vi ho guardato molte volte d'estate. Avanzando carponi, Jane mosse verso di lui, ma la sua frusta la tenne indietro. Non mi toccare, fanciulla della terra, l'ammonì respingendola. La vita è dolce, nessun uomo può venire vicino al sole, non mi toccare. Ma tu sei veramente il sole? Domandò Michael, spalancando gli occhi su di lui. Il sole alzò la mano. O stelle e costellazioni, egli disse. Dite voi, chi sono? Questo fanciullo vorrebbe saperlo. Il signore delle stelle o sole? Rispose un migliaio di voci sidere. Egli è il re del sud e del nord, gridò Orione. È il padrone dell'est e dell'ovest. Egli giunge ai confini estremi del mondo e i poli si sciolgono in suo onore. Dai semi egli fa spuntare le foglie e ricopre la terra di dolcezza. È veramente il sole. Il sole sorrise a Michael. Ci credi ora? Michael assentì con un cenno del capo. E ora? Cominciate la rappresentazione e voi, costellazioni, scegliete i vostri cavalieri. Il sole agitò la frusta. La musica riprese a suonare, molto dolce e gaia. Michael cominciò a battere il tempo con i piedi, sempre stringendo la luna tra le braccia, ma la strinse un po' troppo forte perché all'improvviso si udì un piccolo suono acuto e la luna cominciò a sgonfiarsi. Oh, guardate cosa succede! Gridò Michael e quasi piangeva. La luna si restringeva finché divenne piccola come una bolla di sapone e poi non fu più che un piccolissimo bagliore di luce. E infine le mani di Michael strinsero aria. Non poteva essere una vera luna, no? Egli domandò. Jane guardò interrogativamente il sole oltre il piccolo spazio di polvere di stelle. Egli rovesciò indietro la testa fiammeggiante e le sorrise. Cosa è vero e cosa non lo è? Puoi dirmelo tu oppure io a te? Forse noi non sapremo mai più di questo, che credere una data cosa è renderla vera. E così, se Michael credeva di avere la luna tra le braccia, ebbene, allora ce l'aveva davvero. Dunque, domandò Jane con stupore, è vero che noi stanotte stiamo qui oppure crediamo soltanto di esserci? Il sole rise di nuovo un po' malinconicamente. Fanciulla, disse, non indagare oltre. Dal principio del mondo tutti gli esseri umani hanno fatto questa domanda e io, che sono il Signore del Cielo, anch'io non ho la risposta. Sono certo di una cosa, che questa è la sera libera e che le costellazioni brillano dinanzi ai tuoi occhi e che ciò è reale se tu ritieni che lo sia. Venite, ballate con noi, Jane e Michael, gridarono i gemelli. E Jane dimenticò la sua domanda perché tutti e quattro corsero in pista al ritmo del celestiale motivo. Ma non avevano fatto mezzo giro che, trasalendo di sorpresa e inciampando per l'emozione, Jane si fermò. Michael seguì il suo sguardo e si arrestò anch'egli sulle sue corte gambe grassocce a occhi spalancati. Mary Poppins e il sole ballavano insieme. Ma non nel modo in cui Jane e Michael danzavano con i gemelli, petto a petto e piede contro piede. Mary Poppins e il sole non si toccavano neppure, ma ballavano il valzer con le braccia in fuori, uno di fronte all'altra, seguendo perfettamente il tempo, malgrado lo spazio che li divideva. Intorno a loro roteavano le costellazioni danzanti. Venere con le braccia intorno al collo di Pegaso, il toro e il leone abbracciati e i tre capretti sgambettanti in fila. Il loro mobile splendore abbagliava gli occhi dei bambini che restavano fermi sulla polvere stellata, pieni di meraviglia. All'improvviso la danza cessò e la musica si spense in lontananza. Il sole e Mary Poppins, vicini ma discosti, si fermarono e nello stesso istante ogni animale smise di danzare e rimase quieto al suo posto. Il sole parlò. Ora, disse con calma, Il momento è giunto. Tornate ai vostri posti nel cielo, mie stelle e costellazioni. A casa e a Nanna, miei tre diletti ospiti mortali. Mary Poppins, buonanotte. Non ti dico addio perché ci rivedremo, ma arrivederci, arrivederci. Quindi, con un ampio e aggraziato gesto della testa, il sole superò lo spazio che lo separava da Mary Poppins e con gran cerimonia e con molta cura, brevemente, dolcemente, le sfiorò con le labbra la guancia. Ah! Gridarono le costellazioni con gli occhi colmi di invidia. Il bacio, il bacio! Ma, dopo averlo ricevuto, la mano di Mary Poppins corse alla guancia per proteggerla, come se quel bacio le bruciasse. Un'espressione di dolore attraversò per un attimo il suo volto, quindi con un sorriso volse la testa verso il sole. Arrivederci, ella disse dolcemente con una voce che Jane e Michael non le avevano mai udita. Via! Gridò il sole agitando la frusta e, docili, le costellazioni cominciarono a uscire frettolose dalla pista. Astore e Polluce circondarono con le braccia la vita di Jane e Michael per proteggerli affinché l'orsa maggiore non li sfiorasse mentre si trascinava fuori e le corna del toro non li toccassero, né il leone facesse loro del male. Ma Jane e Michael udivano i rumori del circo divenire man mano più fiochi. Le loro teste cadevano da un lato, abbandonandosi pesantemente sulle spalle. Altre mani li circondarono e, come in sogno, udirono la voce di Venere che diceva: «Dateli a me, io sono la stella guardiana della casa. Porto l'agnello all'ovile e il bambino alla sua mamma». Si abbandonarono tra le sue braccia morbide e si lasciarono cullare da lei come una barca dall'onda, avanti e indietro, avanti e indietro. Una luce brillò dinanzi ai loro occhi. Era il drago scintillante che passava, oppure la candela della loro stanza. Avanti e indietro, si rannicchiarono in un morbido, dolce tepore. Era il calore del sole, oppure la trapunta del letto? Credo che sia il sole, pensò Jane in sogno. Credo che sia la mia trapunta, pensò Michael. E una voce lontanissima, come un sogno, come un soffio, diceva debolmente, debolmente: è quel che voi credete che sia. Arrivederci, arrivederci. Michael si svegliò con un grido. Si era ricordato improvvisamente di qualche cosa. Il mio cappotto, l'ho lasciato sotto il palco reale. Aprì gli occhi, vide l'anitra dipinta in fondo al suo letto. Vide il caminetto con l'orologio, il vaso di Capodimonte e il barattolo della marmellata pieno di foglie verdi e vide, appeso al solito gancio, il suo cappotto con sopra il cappello. Ma dove sono le stelle? Domandò mettendosi a sedere sul letto e guardandosi intorno. Voglio le stelle e le costellazioni. Oh, davvero? Disse Mary Poppins entrando nella stanza, tanto impettita e rigida quanto il suo bianco grembiule inamidato. È tutto? Mi domando se non vuoi anche la luna. La volevo, infatti, egli le ricordò in tono di rimprovero, e l'ho avuta, ma l'ho stretta troppo forte e si è sgonfiata. Sciocco! Lo zittì Mary Poppins mentre gli toglieva la camicia da notte. È già mattina? Domandò Jane aprendo gli occhi e voltando lo sguardo nella stanza, molto sorpresa di trovarsi nel suo letto. Ma come siamo tornati indietro? Stavo ballando con le stelle gemelle, Castore e Polluce. Ah! Voi due e le vostre stelle, disse Mary Poppins burbera, e tirò via le lenzuola. Ve le farò vedere io le stelle. Pum pam! Fuori dal letto, per piacere, sono già in ritardo. E credo che tu abbia ballato troppo questa notte, esclamò Michael che scendeva giù dal letto di malavoglia. Ballato? Ho proprio tempo di ballare, io che bado ai cinque peggiori monelli del mondo. Mary Poppins arricciò il naso e sembrò commiserare se stessa per non aver dormito abbastanza. Ma non hai ballato nella tua sera libera? Insiste Jane, perché si ricordava come Mary Poppins e il sole avessero ballato insieme il valzer nella pista di polvere di stelle. Mary Poppins spalancò gli occhi. Spero, osservò drizzandosi altezzosamente, di avere qualcosa di meglio da fare nella mia sera libera che girare e rigirare in tondo come una trottola. Ma ti ho vista io, replicò Jane, su nel cielo. Sei scesa dal palco reale e sei andata a ballare in pista. Trattenendo il respiro, Jane e Michael fissarono Mary Poppins mentre la sua faccia si imporporava di rabbia. Hai avuto un incubo, ecco tutto, ella disse. Chi ha mai sentito dire che io, una persona nella mia posizione, possa essere saltata giù da... Ah. Ma anch'io allora ho avuto un incubo, la interruppe Michael. Ed era bello. Ero in cielo con Jane e ti abbiamo vista. Cosa? Che saltavo? Sì, e ballavi. In cielo? Michael tremò quando ella avanzò verso di lui. La sua faccia era scura e terribile. Un altro insulto? Disse Mary Poppins minacciosa. Un altro insulto soltanto e ti troverai a ballare nell'angolino buio. Sei avvertito. Michael si voltò in fretta dall'altra parte mentre si annodava il cordone della vestaglia e Mary Poppins attraversò precipitosamente la stanza per svegliare i gemelli, così in collera che persino il suo grembiule scricchiolava di rabbia. Jane si sedette sul letto e fissò la governante china sui lettini. Michael si infilò lentamente le scarpe e sospirò. Deve proprio essere stato un sogno, dopo tutto, disse deluso. Però avrei voluto che fosse vero. Era vero, mormorò Jane a voce bassissima, con gli occhi sempre fissi su Mary Poppins. Come lo sai? Sei sicura? Assolutamente sicura, guarda! La testa di Mary Poppins era china sul letto di Barbara. Jane con un cenno la additò. Guardala in faccia! Sussurrò Michael all'orecchio. Egli guardò attentamente il volto di Mary Poppins. C'era la nera capigliatura tirata dietro le orecchie, c'erano i noti occhi azzurri di bambola olandese e c'era il naso all'insù e le rosse guance luminose e lucide. Non vedo nulla, cominciò, ma si interruppe all'improvviso, perché nel momento in cui Mary Poppins voltò la testa, egli vide quel che Jane aveva veduto. In mezzo alla guancia di Mary Poppins riluceva un piccolo segno fiammeggiante e guardando più da vicino, Michael osservò che questo segno aveva una forma curiosa. Era rotondo e i bordi erano arricciati a forma di fiamme. Era un piccolo sole. Vedi? Disse piano Jane. L'ha baciata lì il sole. Michael assentì con il capo una, due, tre volte. Sì, egli rispose rimanendo immobile a fissare Mary Poppins. Adesso lo vedo anch'io.